Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quante insicurezze si hanno da giovani e non ci sono più nella maturità. Quante passioni si vivono in pienezza solo dopo aver raggiunto l'età adulta. Chi di noi scambierebbe sul serio le certezze, la cultura accumulata, le relazioni e le gratificazioni intellettuali o gli hobby con il proprio sé ventenne, guadagnando prestanza fisica, ma perdendo il tesoro prezioso costruito con pazienza e sacrifici. Buongiorno a voi da Nicoletta. Leggendo il libro del professor Veronesi, Longevità, mi sono imbattuta in questa domanda e ho pensato di condividerla con voi perché credo sia un ottimo punto di partenza per fare una riflessione sul tempo che passa. Poiché il tempo non è una persona che potremmo raggiungere sulla strada quando se ne sarà andata, onoriamolo con letizia e allegrezza di spirito quando ci passa accanto. Wolfgang Goethe. È in linea con noi il professor Umberto Veronesi, direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, e qui in studio con me la dottoressa Giovanna Luini, curatrice del libro Longevità. Buongiorno a tutte e due. Buongiorno. Buongiorno. Professor Veronesi, il tempo non si ferma. Tornare indietro è impossibile, quindi non ci resta che farcelo amico. Forse è questa la sfida che si nasconde dietro la parola longevità, un patrimonio, come lei scrive nel suo libro, che abbiamo a disposizione, su cui è importante credere e investire. Longevità è un termine che può essere multivalente e decisamente abbastanza vago. Forse anche ambiguo, tuttavia nel libro che io ho scritto insieme a Giovanna, il nostro pensiero è che per longevità intendiamo longevità del nostro cervello, cioè la nostra mente, è l'evoluzione della mente, è come mantenerla attiva, è come dare alla mente un ruolo importante nella società, anche la mente delle persone anziane. Perché la persona anziana ha accumulato una quantità di conoscenze, di esperienze, di riflessioni e di elaborazioni mentali, per cui tutto questo patrimonio, ecco perché il nome è patrimonio, non dovrebbe andare perso, e invece va perso, perché la persona anziana è emarginata in qualche maniera, o comunque non è più considerata, tollerata, qualche volta isolata, vive spesso in solitudine, mentre il ruolo della persona anziana serve quello di trasfondere tutto questo patrimonio che ha nel cervello alle generazioni successive, quindi insegnare, ma non insegnare nozioni, insegnare esperienze di vita, insegnare comportamenti che possono essere utili a qualsiasi giovane per formarsi una personalità. Professor Veronesi, voi fate riferimento all'isola longeva, Okinawa, dove fate riferimento proprio al senso di appartenenza delle persone, alla consapevolezza di essere ancora importanti, parlate soprattutto degli anziani, perché gli ultra novantenni in quest'isola felice non smettono di lavorare, praticano arti marziali, sono rispettati e onorati, e c'è questo profondo senso di solidarietà sociale. Sì, questo infatti va in linea con quello che ho detto prima, che bisognerebbe trovare una società intelligente che dia un ruolo alle persone oltre una certa età, perché questo sistema che un certo giorno della vita va in pensione, cioè non esisti più. Non esisti più. Il giorno prima sei una persona importantissima che ha una corte, magari che lo osanna, e il giorno dopo sei sparito. Non esisti. Bene, questo è un errore. È un errore perché perdiamo, come dicevo prima, una quantità di ricchezze mentali che sono quelle delle persone anziane. In secondo luogo, la vita verrebbe vista in maniera diversa. Noi tutti abbiamo desiderio di diventare anziani, perché è naturale, è ovvio, è istintivo. Ma abbiamo anche paura. Abbiamo anche paura di essere proprio in quella condizione di disagio mentale, in parte legato forse a un certo decadimento intellettuale, che è minimo però, se si mantiene il cervello attivo, ma soprattutto la paura di questa inevitabile emarginazione. Quindi è una società che andrebbe riformata, l'anziano bisogna trovare un ruolo, bisogna dargli un peso, bisogna rispettarlo e credere in quello che lui ha fatto. Professor Veronesi, tutti ci auguriamo di vivere a lungo e soprattutto di vivere bene, quindi per usare una frase un po' abusata, non aggiungere non solo anni alla vita ma anche vita a quegli anni, ma non tutti ce la fanno, non tutti hanno la stessa fortuna, come mai? È colpa dei geni, dello stile di vita, del caso? Ma non tutti ce la fanno perché non tutti provano a farcela, questo è il senso di questo libro, è il tema portante, il nostro è un'incitazione alle persone a mantenere il proprio cervello attivo, non solamente facendo le parole incrociate, che forse è un pochino riduttivo, ma leggendo molto, leggendo poesie, scrivendo dei racconti, scrivendo un diario, dialogando con le persone di un certo livello culturale o con degli amici, discutendo ma sempre nel dialogo, cioè nel rapporto con un'altra persona, non stando davanti alla televisione dove si assorbono immagini soprattutto e parole in gran parte abbastanza vuote che non stimolano il pensiero creativo, il pensiero ideativo, mentre invece ecco, si deve rimanere anziani per quello, anziani in senso, sì, in senso proprio esercitando la mente. Lei mi ha chiesto dei geni, certamente i geni contano, non c'è dubbio che ognuno di noi ha un patrimonio genetico che può facilitare o meno un'evoluzione culturale, ma contano mille altri fattori, conta l'infanzia, conta l'ambiente in cui si è sviluppata una persona, conta la famiglia, conta il lavoro. Il lavoro è gran parte della nostra vita, il lavoro può essere creativo, ideativo, e allora la mente elabora e pensa e crea e rimane quindi vivace sino a età avanzatissime. Sono dei poeti che a 90 anni hanno fatto le poesie più belle della loro vita, hanno saputo ideare, creare, indovinare, anche inventare. Certamente c'è la casualità, il caso gioca, ha chiesto, parlato del caso e questo in tutte le vicende della vita. Intanto invito i nostri ascoltatori a chiamare l'800 24 00 24, perché vogliamo fare insieme al professor Veronesi e alla dottoressa Luini una riflessione sul tempo che passa, su come rimanere attivo, su come nutrire la nostra mente, su come aggiungere vita a quegli anni che sicuramente abbiamo guadagnato nell'ultimo secolo. Ma professore, lei scrive e vive a lungo chi vuole farlo, ma nel suo libro traspare proprio anche, viene descritta la sua sobrietà. Lei viene soprannominato il digiunatore. Nella mia famiglia e all'interno del mio staff sono definito il digiunatore perché arrivo a sera con un caffè macchiato, qualche volta una spremuta fresca di agrumi e uno yogurt. Resisto volentieri e senza sforzo alle tentazioni di chi vorrebbe offrirmi un dolce, un pasto, un aperitivo, perché credo che la priorità sia rispettare il mio corpo. Posso socializzare bene e con grande soddisfazione anche senza mangiare, nonostante questo crei ancora stupore dopo anni di scelte alimentari improntate alla più assoluta sobrietà. Chiedo a Giovanna Luini, che è la compagnia di scrivania, anche di raccontarci qualche atto inedito del professor Veronesi, ma non mangia neanche una patatina. No, non mangia, proprio... anzi io ho perso 28 kg da quando ho iniziato a lavorare con lui, è stato un bene per me, devo dire una delle mie grandi fortune nella vita, è che proprio non mangia e invita anche noi a mangiare meno. Con me ce la fa abbastanza, ma non sempre, però devo ammettere che ha ragione, perfettamente ragione. Professor Veronesi, lei è vegetariano per ragioni etiche ma anche scientifiche, nel suo libro ne parla. Consumare carne è un avvelenamento progressivo. Pensiamo alle sostanze inquinanti. Non ci limitiamo a respirarle, ma le mangiamo. Il ciclo è questo. Dall'atmosfera ricadono sul terreno, quindi sull'erba. Poi sono ingerite dal bestiame in forma di erba o di mangimi e accumulate nei depositi adiposi degli animali. Dal grasso animale arrivano nel nostro piatto. Frutta e verdure, invece, sono poverissime di grassi e ricche di fibre. E oltretutto agevolano il transito di cibo nel canale alimentare, quindi riducono il tempo di contatto degli eventuali cancerogeni con la parete intestinale. I vegetali, poi, oltre a contaminarci molto meno rispetto agli altri alimenti, sono ricchi di vitamine, antiossidanti e inibitori della cancerogenesi, come i flavonoidi e gli isoflavoni, che neutralizzano gli agenti cancerogeni, ne diluiscono la formazione e riducono la proliferazione delle cellule malate. Professore, consumare carne è un avvelenamento progressivo. Scrive forse, lei. Ecco, sì, ridimensioniamo questo termine. Non so dove ho scritto quelle cose. Sì. Però sì, c'è sul libro. Verità, sì. Tutte le dati statistici dimostrano che i carnivori vivono meno a lungo dei vegetariani, quello basta consultare i dati statistici. E poi c'è una cosa interessante che, per esempio, faccio questo esempio, nei paesi dove si consuma molta carne c'è molto tumore intestinale, dove non si consuma carne non c'è tumore intestinale. Quindi questa correlazione che tutti i trattati riportano con ampie anche citazioni dimostra che qualcosa che non va c'è nella carne, ma anche comprensibile, non la carne in sé, perché la carne siamo noi stessi fatti di carne, quindi sì, è difficile che siamo noi stessi cancerogeni, ma la carne come veicolo, come descrivevo prima, di sostanze inquinanti dell'ambiente, è la forma più comune per introdurre dentro di noi degli inquinanti ambientali e quindi certamente è questo problema. La mia ragione, però lei l'ha detto, non è quella, la certo, ragione etica, io amo gli animali e non li mangio, io amo i bambini e non mangio i bambini, certo, gli animali non mangio gli animali. Quindi ogni tanto trovo persone che dicono, ma io amo gli animali e intanto si fanno fuori c'è la bistecca di un vitello o la coscia di un agnello. E quindi bisogna che tutti impariamo a essere coerenti con noi stessi. Se amiamo gli animali non possiamo mangiarli. È giusto scagliarsi contro la vivisezione come fanno molti adesso e come io anche in parte condivido, ma niente che vedere la vivisezione con le torture, le sofferenze degli animali negli allevamenti, non c'è paragone, insomma. Quindi quando vedo un bambino che firma fuori dalla scuola la petizione per vivisezione, poi va a casa e la mammina gli prepara un bel piatto di carne, vedo che insomma non siamo maturi ancora. Professore, però molte mamme pensano ancora che per far crescere i bambini sani e forti le proteine della carne siano necessarie. Che cosa consiglia alle mamme dei bambini, di adolescenti, quindi dei futuri uomini e donne di domani? Guardi, c'è un continente intero, che è l'India, quasi un continente diciamo, di più di 1 miliardo di abitanti, dove non si mangia carne. Non si mangia carne per ragioni religiose, come sapete, perché il pericolo che la reincarnazione possa avvenire all'interno di un essere vivente non umano, anche di un animale, quindi può far immaginare che mangiando carne mangi magari lo spirito di tuo nonno, di tuo bisnonno. Per queste ragioni non mangiano carne e lasciano le mucche girare per le strade perché sono sacre. Quindi c'è un rapporto con la vita animale molto bello, a mio parere, io ci sto volentieri. Bene, gli indiani crescono benissimo, i ragazzi indiani hanno il più alto quoziente di intelligenza nel mondo, quindi non c'è nessun bisogno di carne, c'è bisogno di proteine, le proteine le troviamo in tutti i vegetali. E se pensi che un bambino cresce fino a 2 anni in genere solo col latte materno o può crescere solo col latte materno e in tutti gli organi si sviluppano benissimo, vuol dire che la caseina nel latte è una proteina, poi si ricombina con tutti i suoi aminoacidi in altre proteine che compongono il nostro organismo. Quindi non c'è nessuna ragione di mangiare carne da bambini, non c'è. Infatti il bambino, se ci pensate bene, rifiuta la carne inizialmente quando gli viene posta, preferisce la pasta o i dolci o le cose o le verdure, la frutta ama, ma non la carne. Abbiamo in linea con noi Umberto, un altro Umberto, che ci chiama da Piacenza, 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Umberto. Professoressa e professore, buongiorno. Buongiorno. Siamo da Piacenza, io avevo acceso la radio recentemente e non ho sentito molto bene, diciamo, il discorso di Umberto Veronesi. Può scaricarlo però anche in podcast. Io chiamavo per questa informazione. Sì. Io ho l'età di 72 anni, sono in pensione da oltre 13 anni, rimango sempre in attività e sto studiando, tra l'altro, la lingua cinese. Bene, no? E quindi bene, tiene... segue proprio le nostre indicazioni, quello è quello che una persona deve fare, non far mai invecchiare il proprio cervello. Dottoressa Luini? Beh, complimenti, e fa benissimo, perché lo studio e soprattutto la passione per lo studio, quindi ciò che sta alla base dello studio, aiutano a vivere a lungo e bene. A Umberto da Piacenza faremo arrivare a casa il libro del professor Veronesi e di Giovanna Luini, Longevità. E a chi di voi ci chiamerà per raccontarci un po' che cosa sta facendo adesso per aggiungere vitalità agli anni, quali strategie state adottando? 800 24 00 24, il professor Veronesi e la dottoressa Luini mi hanno portato qua qualche libro e quindi io, dato che il libro è molto bello, sono felice di farvelo leggere. Professor Veronesi, lei dedica ampio spazio nel suo libro, e vorrei ritornare prima di salutarla, alla curiosità. Lei è sempre stato una persona curiosa. Amare è il bisogno primario. Desiderare e avere curiosità sono inscindibili dal nostro esistere. Ecco, una frase che io posterò oggi sul nostro profilo Facebook per attivare un po' i vostri commenti, come facciamo sempre. Professor Veronesi. Dunque, la curiosità è innata dal bambino quando si cresce e diventa ancora più forte in chi sviluppa una mentalità scientifica. La scienza è il risultato della curiosità dell'uomo. Scoprire è il risultato del nostro desiderio di conoscere. Quindi la curiosità è trascinante, forse l'aspetto più importante della nostra attività mentale, perché ci permette proprio di conoscere di più. E lei ha citato anche il bisogno di amare. Il bisogno di amare è anche questa in parte curiosità, perché vuol dire esplorare un altro essere vivente che è quello con cui siamo in contatto. Ma amare è anche una donazione, è un atto di generosità. E si può amare solo se ha questo desiderio di dare una parte di se stessi. Un filantropo di solito ama, perché ama l'umanità, e questa è la base dello sviluppo della nostra civiltà. Civiltà è basata sul fatto che noi costruiamo una residenza, un villaggio, una città, in maniera che chi ci vive deve essere il più felice possibile. Quindi è un atto d'amore, anche il buon architetto esprime un atto d'amore per l'umanità. Professore, prima di salutarla voglio far ascoltare i nostri ascoltatori un'altra frase che io tratto da un libro a proposito di amore, un suo libro che a me è piaciuto molto, dell'amore e del dolore delle donne, in cui c'è una sorta di dichiarazione alla femminilità, alla donna. L'ascoltiamo, e intanto professor Veronesi, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Mi sono accorto, provando quasi una sorta di invidia, che c'è qualcosa nella donna che la tiene ancorata saldamente alla vita e non le fa mai perdere il contatto con chi le sta accanto. Dedicata a tutte le mie ascoltatrici preferite. Essere e benessere. Parte del tempo ce lo strappano di mano, parte ce lo sottraggono con delicatezza e parte scivola via senza che ce ne accorgiamo. Seneca. ritorniamo a parlare di tempo, di anni, di vita che vogliamo dare a questi anni, prendendo spunto dal libro Longevità. Abbiamo fatto due chiacchiere con il professor Veronesi e qui in studio con me Giovanna Luini, che ha curato il libro per il professore. Intanto a voi volevo chiedere di darci un po' la vostra ricetta. Abbiamo fatto una sorta di mix delle cose che servono per vivere pienamente la vita, questi anni che per una serie di ragioni possono toccarci in sorte. E tra queste abbiamo messo sicuramente la curiosità mentale, un'alimentazione, una sobrietà nell'alimentazione. L'attività fisica la mettiamo, dottoressa Luini? La mettiamo un po' meno rispetto all'alimentazione, perché se è vero, ed è vero, che l'attività fisica aiuta molto, aiuta il sistema cardiovascolare, la respirazione, riduce anche il rischio di alcuni tumori, è altrettanto vero che però sembra non incidere così tanto sulla longevità. Cioè gli ultra novantenni spesso non hanno dati significativi che riguardino l'attività fisica. Quindi l'attività fisica aiuta senz'altro. Se parliamo di longevità e di ultra novantenni, a quel punto conta di più l'alimentazione. Riccardo dalla provincia di Latina, Angelo dalla provincia di Bergamo e Carlo da Vicenza, state con noi, 800 24 00 24. Vi chiedo di suggerirci un po' un vostro segreto. Ma a proposito di longevità, noi stiamo andando bene, dottoressa Luini, perché nell'aumento progressivo dell'aspettativa di vita il nostro paese ha un posto di tutto rispetto, ma ci sono i dati ISTAT, alcune regioni sono sono le donne ad essere più longeve, in altre gli uomini. Allora ditemi, secondo gli ultimi dati, le ultime stime ISTAT, quelle del 2009, la regione in cui sono più anziani gli uomini e la regione in cui sono più anziane le donne. 800 24 00 24. Se uno si trasferisce poi rimane di più? In alcuni casi sì, ma non sempre. Perché intanto noi andiamo a capire dove si vive di più a lungo, a seconda del sesso ci orientiamo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, piacere di partecipare alla tua trasmissione. Grazie, piacere mio. E io racconto la mia esperienza, che praticamente la mia ricetta per allungare la vita, prima cosa, è vivere il presente. C'è una frase molto bella che dice: se vivi il presente vivi all'infinito, di Gibran. E questo è anche lo stile di pensiero orientale, avete citato l'isola di Okinawa, sì. E con dei maestri pari al maestro professor Veronesi, che ha scritto un libro che io comprerò sicuramente, perché parla di amore soprattutto. E in questo la mia ricetta è sullo stile di vita, perché lo stile di vita è fatto dal ridurre, secondo me, secondo la mia ricerca che sto portando avanti anche nel territorio, il conflitto con se stessi, il conflitto con l'altro e il conflitto con l'ambiente. Ecco che entra in gioco l'alimentazione, soprattutto alla porta d'ingresso lo sport. Sì. E quindi adesso io spero che un domani porterò anche qualche risultato in più a Radio 24, perché nel territorio, il centro commerciale del territorio è interessato, sto portando gli orti nelle scuole, i bambini mi stanno dando una mano, stiamo andando. Mi piace, i bambini mi stanno dando una mano. Riccardo, allora non è un invito a non comprare il libro del professor Veronesi e della dottoressa Giovanna Luini, ma Riccardo, che ci ha dato la sua ricetta, potrà ricevere a casa il libro Longevità. Grazie Riccardo per la sua telefonata. Angelo dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, dato che io partecipo dei corsi di comunicazione con se stessi, io la mattina quando mi alzo, guardandomi allo specchio, cerco di programmare la mia giornata mentalmente e di portare a termine positivamente la giornata. Ma ad esempio, mi scusi Angelo, mi ha incuriosito, davanti allo specchio lei stamattina che cosa si è detto? Dunque, io questa mattina ho detto caro questo. Angelo. No, senza quello del caro Angelo è la cosa più bella che si dice la sera prima di andare a dormire. Care Angelo, dormi bene, i pensieri negativi lasciali andare e fai entrare in te quelli positivi. Alla mattina, ora mi apro con gli occhi, dico: questa mattina ci aggiungo l'occhio, sorrido, la prima cosa sorrido, dico: oggi devo fare queste cose positivamente. senza andare incontro, perché facendo il venditore lo stomaco si alza, cioè, è come uno telefona perché non è arrivato il materiale, l'altro telefona perché è arrivata la bolla sbagliata. Allora i bei respiri forti, imparo ad ascoltare. Infatti io quando si fanno questi corsi di comunicazione ci mettiamo davanti uno all'altro e da te cosa vorrei? Sono sempre io, parlo per 6 minuti e poi ascolto l'altro per 6 minuti e la mente comincia senza elaborare perché il cervello si svuota e io ascolto e queste cose sembra una banalità, non che sia una cosa così bigotta, imparando ad andare a messa ad ascoltare la predica, chiudere gli occhi ad ascoltare, imparare ad ascoltare. L'ascolto. Mio papà è morto a 94 anni e mia mamma ne ha 92. E le hanno insegnato l'importanza e l'efficacia dell'ascolto. Dottoressa. È verissimo, io spesso invito le persone che seguo perché hanno avuto o hanno un tumore al seno ad ascoltare se stesse, soprattutto ascoltare se stesse quando parlano. Perché quello che diciamo agli altri spesso viene detto a noi stesse e indica il nostro reale pensiero. Quindi se da me viene una donna che è stata operata per un tumore al seno e dice io sono una malata, è chiaro che nella sua testa ha il concetto di malattia e non quello di salute, e sta dicendo a se stessa prima che a me che la malattia esiste ancora e che le condiziona l'esistenza. Quindi l'ascolto è anche l'ascolto di se stessi. Ciò che diciamo non è mai detto in vano. Carlo ci chiama da Vicenza. Buongiorno Carlo. Buongiorno, la ringrazio di avermi chiamato. Grazie a lei. Ci racconti? Ma io sono neopensionato, felice di essere andato in pensione. Per motivi che si possono immaginare, ma d'altronde devo ricompletamente reinventarmi. Ho ascoltato con grande curiosità le parole del professor Veronesi, che ho avuto anche recentemente l'occasione di intravedere. È un vecchio dal punto di vista anagrafico di un'energia straordinaria, e quindi lo ascoltavo come un oracolo. Il mio reinventarmi, essendo stato io un dirigente, una persona che ha avuto anche il tempo di coltivare delle passioni intellettuali, così comincia ad essere quello di trovare una nuova forma fisica, perché avendo lavorato sempre seduto, insomma, un lavoro sedentario, mi sto mettendo in testa di ritrovare una forma fisica diversa. Il professore non ne ha parlato assolutamente, naturalmente io non sono novantenne, però la cosa che lui non ne abbia parlato mi ha molto turbato. Sull'attività fisica. Attività fisica, ne parla nel libro, l'abbiamo accennato con la dottoressa Luini, sicuramente è un ingrediente per vivere bene, anche perché sappiamo, dottoressa Luini, che l'attività fisica fa... No, produce le endorfine, e quindi gratificano, e tanti studi dicono che mente, il cervello si rallegra quando ci muoviamo. Quindi sicuramente da questo lato, nel libro del professor Veronesi c'è anche un capitolo sull'attività fisica, ma declinato, dottoressa Luini, un po' come avevamo accennato già, ma ripetiamo. È declinato in vario modo, si basa anche sulla passione, sulla curiosità. Dobbiamo pensare che longevità è anche riguarda anche persone che superano i 90 anni. Ci sono questi ultra novantenni che chiaramente possono fare un po' di attività fisica, ma non tutta questa attività fisica. E allora l'attività fisica a cui alludiamo è un insieme di movimento, interessi e anche passione. Per esempio attività fisica è l'attività sessuale. E anche l'attività sessuale, che ha il vantaggio di abbinare movimento e creatività. Leggo il libro, 800 24 00 24. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico, vi aspettiamo. Qual è la regione in cui le donne sono più longeve e quale invece la regione in cui a essere più longevi sono gli uomini? Essere e benessere. E noi torniamo subito invece, dottoressa Luini. Quindi, in genere, attività. attività. Bisogna essere attivi. Bisogna essere attivi anche sessualmente. Oddio, bisogna. È meglio essere attivi. È auspicabile. È auspicabile, sì. Perché la sessualità non è solo attività fisica, ma anche attività mentale, è curiosità, come diceva il professore prima, è amore. Ed è uno stimolo forte a restare vivi, ad avere interessi, ad avere la voglia di andare avanti. Abbiamo Nicola da Foggia. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Dunque, io vi ringrazio per aver chiamato innanzitutto. E volevo aggiungere, diciamo, a queste cose che avete detto, anche il saper riuscire a dormire bene. Bravo Nicola, è vero. Perché è vero che bisogna muoversi durante la giornata, fare tante attività, però è anche importante avere uno sonno regolato, e non disturbato e non essere, diciamo, attratti a volte dai vari programmi della TV. Bisogna ascoltare sempre solo Radio 24, diretta a me. Poi si spegne, si va a dormire, si ritorna e così siamo una bellezza. Nicola, lei dorme bene? Sì, diciamo che ho imparato a regolare il sonno, andare sempre a dormire alla stessa ora, alzarmi la mattina ugualmente e quindi evitare le cose che mi potrebbero portare a dormire male, per esempio mangiare a 2 ore prima di andare a dormire, perché anche una buona digestione con un bel malloppone sullo stomaco è difficile. Certo. Grazie a Nicola. Quindi il sonno, un riposo, sonno, che tra l'altro è vero, sì, è molto importante. Diciamo che il sonno è fondamentale per avere uno stato di veglia accettabile, per non avere durante la giornata anche momenti di calo che possono essere pericolosi per noi e per gli altri. Poi se andiamo a vedere gli esempi, Umberto Veronesi dorme pochissimo, è vero. Sì. Ma certo che è un uomo strano, mangia poco, dorme poco, sì, fa un sacco di cose. Quando io arrivo la mattina e arrivo presto all'IEO, lui è già lì da un bel po' e mi guarda come se io fossi una pigrona, magari lo sono anche, però la pigrona arriva alle 7:30 e lui è già lì da un po'. Una bella ansia, un po'. Daniela dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ascoltavo la vostra trasmissione, interessantissima, un po' a sprazzi perché nel frattempo sono andata a fare la spesa. Ha fatto bene. Cosa ha comprato, Daniela? Di tutto, la spesa della settimana, perché lo so. Noi siamo in 4, quindi... Anche a me è toccata stamattina alle 8, sono andata. Ho già dato, vorrei... come si dice. Sì, volevo riagganciarmi a questo discorso del sonno. Allora, innanzitutto io mi sono presa questa pausa, per cui la sera a una certa ora, qualsiasi cosa ci sia in televisione, a meno che sia una cosa particolarmente interessante, vado in camera, mi chiudo nella camera perché non voglio sentire rumori e leggo, perché leggere è sempre stata la mia passione, cioè per me è proprio la nutrimento, una vita parallela, diciamo, no? Sì. E oltre a questa cosa, da qualche mese, non so come sia uscita, ho iniziato a scrivere. Un po' mi sorrido di questa cosa perché non sono assolutamente una persona che ha le competenze o che ha frequentato dei corsi di scrittura, piuttosto che... Non è necessario. Maria Rosa, glielo dice anche la nostra dottoressa Luini. Assolutamente, a me scrivere ha cambiato la vita, non serve fare corsi di scrittura. Se lei ha la scrittura come passione, come dote innata, vada avanti, perché nessuno le può insegnare niente, è lei che se lo insegna da sola. E a questo proposito, Maria Rosari, Daniela, le consiglio di andare magari a riascoltarsi la puntata di Tiziano Ferro, in cui abbiamo proprio raccontato quanto la scrittura, in questo per Tiziano il diario, quindi aiuti veramente a tirare fuori delle emozioni che talvolta invece non riusciamo a riconoscerle. Lette, elaborate, scritte nero su bianco, ci danno delle indicazioni. Tra l'altro, a proposito di creatività, di mente, vi voglio raccontare una bella cosa, perché io voglio che voi siate informati anche su le belle iniziative che vengono promosse per aiutarci a vivere meglio. Bene, si apre il 12 marzo, lunedì, fino al 18, la Settimana Mondiale del Cervello, che è una ricorrenza annuale proprio pensata e dedicata a sollecitare la consapevolezza nei confronti della ricerca sul cervello. È il frutto di un enorme coordinamento internazionale a cui partecipano le società neuroscientifiche di tutto il mondo e dal 2010 anche la Società Italiana di Neurologia. Noi sappiamo, ne abbiamo parlato, ne parleremo proprio nel corso della prossima settimana, quanto i progressi della medicina abbiano prodotto un allungamento rilevante della durata della vita. Bene, però la qualità della vita conta, ma bisogna in qualche modo guadagnarsela, cercare di averla. Allora io vi rimando per le iniziative legate alla Settimana Mondiale del Cervello al sito www.neuro.it. Vi anticipo che mercoledì prossimo dedicheremo proprio una puntata, come al mens sana in corpore sano, ma declinandolo con tanti ospiti ed esperti, e quindi alleniamoci a vivere bene, e magari anche con il consiglio di Maria Rosa, che ci chiama da Napoli. Buongiorno Maria Rosa. Ehi, buongiorno. Senta, ho 74 anni, già gliel'ho detto, e adesso sentendo la signora che ama la scrittura, la prima cosa che mi sono ricordata, ho due nipotine alle quali mi dedico a tempo pieno solo il mercoledì e il giovedì, mm-hmm. e la storiella dei tre porcellini che conoscono tutti, sì. Io l'ho continuata e spero di pubblicare prima o poi anche un libro su queste storielle, perché il lupo è diventato buono, vabbè, c'è tutto un seguito sul lupo. Poi sono un'ex insegnante, quando posso do lezioni, che mi piace da morire, vado nell'intervallo di molti lavori, vado in un bar dove ci sono i libri e la Feltrinelli, e dormo poco anch'io. Come sono il professor Veronesi, bisogna... sono abbastanza disordinata, però la mia casa, tutti quelli che vengono dicono è viva. Ora le sto parlando dalla cucina, c'è un caos, piantine che sto coltivando, spesa che sono già andata a fare eccezionalmente stamattina presto. Maria Rosa ci ha portato una ventata di freschezza napoletana. Grazie a Maria Rosaria da Napoli, grazie alla dottoressa Luini, a voi che ci avete sentito e ascoltato, ci sentiamo lunedì.